Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Una quindicina d'anni fa ho scritto una canzone che diceva quante vite avrei voluto, perché in realtà è una pulsione che abbiamo tutti, cioè quella di pensare che una vita sola non ci basti. E in effetti ci sono persone che hanno dimostrato che una vita sola non bastava, magari perché avevano molto talento e troppa energia per far entrare tutto in una sola esistenza. E ci sono anche personaggi che magari non sono noti al grande pubblico, ma che hanno avuto un'esistenza piena di colpi d'ala, che hanno portato in alto, hanno fatto virate improvvise da un'esperienza all'altra, magari lontane queste esperienze tra di loro anni luce. Questo è proprio il caso del personaggio di cui oggi raccontiamo la storia. Un uomo difficile da definire, perché bisogna mettere insieme una carriera ai vertici nel football americano, sensibilità di artista, di pittore, una faccia giusta per il cinema, una capacità imprenditoriale, ma soprattutto la musica, soprattutto quella cosiddetta afroamericana. Oggi vi racconto la storia di Harold Bradley. Tutta la sua vita, le sue esperienze personali e pubbliche potrebbero essere riassunte in una parola: multiculturalità. Dalle sue origini alle sue scelte di vita fino a un percorso musicale che arriva al Folk Studio, uno storico locale di cui parleremo. Tutto racconta di quest'uomo, classe 1929, alla ricerca di un mix culturale, di un incontro tra realtà, persone diverse, lontanissimo, insomma uno per cui la diversità è sempre stata sinonimo di ricchezza. Per cercarla è arrivato un giorno a Roma e, come tanti, se n'è innamorato. Tutte le strade che portano a Roma giungono al Folk Studio, dicono, almeno per quelli che piacciono alla musica popolare, internazionale e il jazz. E questa è proprio la sua voce, un filmato della Rai che non è mai andato in onda, datato 1965. Bradley è sul minuscolo palco del Folk Studio, della sua creatura, di cui vi parlerò tra poco. È a Roma da qualche anno, è una città in cui lui è arrivato attirato dall'arte, e qui a Roma lui ha portato invece la musica dei neri americani. Harold Bradley nasce il 13 ottobre del 29 a Chicago, Illinois, patria di una delle più famose forme di blues, quello diciamo rilanciato dai Blues Brothers. Il padre Harold è un postino di origini miste, afroamericane e nativo americane, è uno dei primi giocatori neri della NFL, la Lega Professionistica Americana. La madre si chiama Etty Rath e anche lei è un bel mix, perché è afroamericana ma di origini tedesche, è una nutrizionista nelle scuole pubbliche. L'infanzia di Harold e della sorella Pauline è un'infanzia serena. Vivono a Westwood Lawn, che è un sobborgo di Chicago, con una popolazione che è un calderone di razze e culture. E vedi il destino, insomma, partiamo già da lì. È un posto dove trovi cinesi, svedesi, irlandesi, messicani, italiani, insomma, un posto in cui il colore della pelle o l'attitudine, insomma, non crea grandi differenze. Nella famiglia di Bradley, che lui definisce la famiglia arcobaleno, ci sono persone con la pelle scura, altri con la pelle chiara, che è l'eredità del quarto che arriva dalla Germania. È una famiglia in cui la musica è di casa, le note del jazz sono una specie di colonna sonora, Duke Ellington, Charlie Parker, Count Basie. Lui a 5 anni prende lezioni di pianoforte, comincia a coltivare una delle sue tante passione. E poi però lui ha un altro interesse, che è quello per l'arte. È un interesse anche questo nato in famiglia, perché un amico del padre è un famoso caricaturista per dei giornali importanti, e quindi i disegni di questo, diciamo, zio acquisito spingono Harold verso questa attività. Passa il suo tempo libero disegnando, è un talento che emerge rapidamente, viene notato da compagni e insegnanti. a 9 anni mentre frequenta il Chicago Art Institute, che è anche peraltro il secondo museo americano per importanza, vince un premio nazionale. Gli studi d'arte sono la sua strada e si diplomerà al Englewood High School. Poi proseguirà con la facoltà di belle arti all'Università dell'Iowa, dove si laurea nel 51. Insomma, musica e arte, tutti interessi raffinati, cuore e cervello, ma non è tutto, perché lui parallelamente ha un altro talento che sta coltivando, un talento molto americano, e i suoni che sente, insomma, non sono solo quelli del jazz. 9:45 to go for the game. Rodgers waits, steps up, scrambles left, throws end zone, diving grab, touchdown! Touchdown, eh sì, il football americano, che è un altro dei talenti che scorrono nella famiglia Bradley, perché il padre in gioventù aveva fatto anche questo, aveva militato tra i professionisti dei Chicago Cardinals, uno dei primi giocatori neri del NFL. Quindi lui comincia a giocare nella squadra del liceo, poi all'università dell'Iowa, e lo sport tra l'altro gli evita di essere mandato al fronte perché c'è la guerra di Corea, e negli anni della leva lui fa parte della squadra della marina americana. Insomma, aggira il problema, è molto meglio, no? Prendere un po' di botte in un campo di football americano piuttosto che andare a sparare a un coreano che non ti ha fatto niente. E nel 53, quando viene scoperto da un coach importante, quello dei Cleveland Browns, che lo invita agli allenamenti della squadra, insomma un anno dopo è titolare, esordisce tra i professionisti, e in 2 anni, nel 54 e nel 55, i Browns arrivano al Super Bowl e lo vincono entrambe le volte. Insomma, Bradley è uno che ha vinto 2 Super Bowl, che ha trovato il suo mondo nella NFL, un mondo onesto per lui, fatto di brave persone, di professionisti seri. Rimarrà con i Cleveland Browns fino al 58 e poi andrà a giocare un'altra stagione con gli Eagles a Philadelphia. Bradley è un personaggio che ha già tanti volti. Nel periodo del football a Cleveland lui alterna gli allenamenti, le partite da professionista, quanto di più violento, insomma di più truculento ci possa essere, con la pittura. E proprio nella città dell'Ohio apre uno studio d'artista e inizia a insegnare a dipingere al Karamu House, nella comunità nera della città. Insomma, sentite quanto era avanti quest'uomo. Siamo a cavallo degli anni 50 e abbiamo un pittore che vince il Super Bowl. E sarà l'arte a portarlo al suo primo colpo d'ala, quello che lo spingerà verso l'Italia. Il falco e il gabbiano. Harold Bradley, un uomo dai tanti talenti, dalle mille sfaccettature, è un uomo che alla fine degli anni 50 sta concludendo una carriera di successo tra i professionisti del football americano. È uno che ha vinto per 2 anni di fila il Super Bowl con i Cleveland Browns, però intanto è uno che dipinge, è uno che insegna ai ragazzi della comunità nera, cioè è assolutamente una persona fuori dal suo tempo, è molto più avanti. È cresciuto immerso nella musica e in una realtà all'insegna della multiculturalità. Sentite questa parola, insomma, che oggi viene interpretata in troppi modi e anche in modi pericolosi. Un uomo capace di giocare in uno sport duro come il football e nel frattempo a coltivare delle passioni super raffinate, dipingere, suonare. E poi c'è l'arte, l'arte che lo spinge lontano dal suo mondo, verso la Mecca dell'arte. Qual è la Mecca dell'arte? L'Italia. Dopo il mio ritiro avevo pianificato di andare in Europa perché mi piaceva quello che stavo leggendo nel mio libro di storia dell'arte sull'Italia e sull'Europa. Io ho pensato, se vado in Europa posso fare arte, storia dell'arte, perché quella è la mia passione, sono anche un pittore. Volevo finire i miei studi specialistici e arrivato qui scesi al porto di Napoli, presi il treno per Roma per raggiungere un mio amico, un pittore, che era anche un po' il mio salvagente economico. G.I. Bill bit. Ah, andavi da lui per spendere soldi. Per spendere soldi e simili. E a quel tempo ormai avevo anche realizzato la mia carriera di giocatore di football quando venni qui. È la fine del 1956. Harold aveva vinto una borsa di studio nel periodo universitario, ma non l'aveva ancora sfruttata, quindi parte per l'Europa, visita molti paesi e non è un viaggio di piacere. Lui si vuole arricchire, gira l'Europa, poi arriva in Italia e decide di restare. Nel 59 si iscrive all'università per stranieri a Perugia e poi si innamora di una sua compagna di studi che frequenta la sua stessa scuola di lingua, è un'ebrea tedesca, si chiama Annelore, e insieme formano una coppia quantomeno particolare per l'Italia di quegli anni e vanno a vivere a Roma in un minuscolo appartamento. Beh, rispetto a ora, a Roma negli anni 50, quando sono arrivato, era meno nevrotica, probabilmente più provinciale. Una nazione che voleva farcela contando solo sulle proprie forze. Si percepiva questa forza che pulsava. Io avevo il mio primo appartamento in Via Giulia, un così piccolo appartamento, e lo condividevo con quella che sarebbe stata mia moglie. E anche lei studiava? Sì, anche lei era una studentessa, ed era una studentessa migliore di me. Dopo un anno e mezzo di matrimonio nacquero i figli, e funzionava così. Un uomo nero con un passeggino che spingeva un bambino, con una donna castana che sembrava proprio italiana. Ma mia moglie è tedesca, è cresciuta a Berlino e parlava inglese. Noi cercavamo sempre di parlare italiano, ma parlavamo anche inglese ai nostri bambini. Io parlavo inglese, lei parlava tedesco e così potevano imparare tre lingue. Roma è accogliente per Harold Bradley, si trova dove vuole essere, perché per certe cose, soprattutto in quegli anni, Roma era ed è il centro del mondo, è una realtà nella quale lui può esprimersi dal punto di vista artistico. Apre uno studio insieme a uno scultore canadese che si chiama Bob Cogill e lo studio lo apre a Trastevere e inizia a tenere delle mostre, espone lavori realizzati a tempera, acquerelli e oli. Nei primi anni 60 arriva un'altra novità nella già affollata vita di Harold, è un altro tassello a questo mosaico colorato. Nel 60 accompagna degli amici sul set del film La tragica notte di Assisi, che è una produzione sulla vita di Santa Chiara, e ottiene un ruolo secondario. Il cinema per lui è un altro divertimento, però è anche un modo per fare un po' di soldi, ed è un periodo ricco di pellicole di genere che vengono prodotte a Roma, Cinecittà. Lui viene scelto per il ruolo di schiavo nel film Io Semiramide, e poi nel 63 Maciste, l'eroe più grande del mondo, ruoli piccolissimi, però negli anni troverà spazio anche in parti più importanti, per esempio è uno dei gladiatori in Sette contro tutti, poi recita nella Cappana dello zio Tom del 65, insomma è un nero, quindi alcuni ruoli non li può fare, l'ufficiale nazista non glielo fanno fare, però sta facendo tantissime cose, addirittura nel Colossal Cleopatra gli viene assegnato più di un ruolo. Avevo 4 o 5 ruoli in Cleopatra, perché sai, ti perdi lì. Ci sono i soldati del faraone, ci sono danzatori e botti di vino ovunque. Ero un generale e un uomo dell'esercito quando c'erano le truppe egiziane che marciavano su Roma. Avevo minimo 4 ruoli e venivo pagato bene. E comunque per tutta la sua vita il cinema sarà una bella attività collaterale, perché ogni tanto farà altre cose, per esempio sarà dentro a Gangs of New York di Scorsese, ma anche in Habemus Papam di Moretti, e farà uno dei cardinali, quelli che giocano a pallavolo, ma il segno lui non lo lascerà col cinema e neanche col football, che è una parentesi meravigliosa che si è chiusa. Il segno lui sta per lasciarlo con la musica. Il falco e il gabbiano. Vi sto raccontando la storia di Harold Bradley. È un nome che a molti non dirà nulla. Non è un personaggio che gode della popolarità del grande pubblico, è un pubblico che oggi sa a memoria i figli dei reality show, quelli che escono dai talent. Qui invece stiamo parlando di ben altri spessori. È uno che ha vinto 2 Super Bowl tra i professionisti del football e poi ha avuto una carriera da pittore, da insegnante d'arte, e poi è apparso in decine di film. E però manca ancora la cosa principale, quella per la quale lui è conosciuto in Italia, perché a partire dal 1960 la sua passione per la musica nera diventerà un locale, il locale che per anni è stato un punto d'incontro dei musicisti romani, un locale che è diventato un mito, il Folk Studio. Siamo a Roma, 1960, un periodo particolare, insomma, quello della dolce vita. Roma è una città viva, stimolante, bellissima. Sono gli anni in cui in Italia esplode un interesse per la musica afroamericana, per il jazz, per la multiculturalità. E il protagonista della nostra puntata è cresciuto nella musica nera che sentiva in casa quando era ragazzo. E poi, insieme alla pittura, lui ha proprio nel sangue l'arte, la musica. Non ha mai pensato prima di cantare davanti a un pubblico, ma in questo momento a Roma parte una molla diversa, inizia lui stesso a fare musica. Il suo studio d'artista diventa un club, è una specie di salotto, un posto molto piccolo con un palco che quasi non sembra un palco, e chiama questo locale Folk Studio. Lo apre solo di sera a tutti quelli che hanno voglia di suonare e di cantare, e lo fa lui stesso. Per la prima volta canta in pubblico. La canzone è Old Man River di Paul Robertson. Il Folk Studio nasce come una iniziativa tra amici, un modo per stare assieme nelle ore notturne, per incontrarsi. Come racconta la moglie, Harold non vorrebbe mai dormire perché dice che le ore di sonno sono ore sprecate, e un po' ha ragione. Di giorno lui dipinge, di sera apre il suo studio agli amici, però Bradley dice che dietro l'apertura del Folk Studio c'è anche qualche altro zampino. E Dio ha detto: quel posto lì, quel posto umile, quello studio brutto un po', corridoio, quello dobbiamo fare una cosa interessante culturalmente. Harold, ci può aiutare? Ho detto, sì. Così ho iniziato con diverse preghiere, perché alcune volte non ci sono stati artisti all'inizio, no? Un circolo di amici, certo, così. Amici che abbiamo invitato un venerdì o un weekend, no? Serata del weekend. Così abbiamo iniziato. E beh, mi piace l'idea che Dio dall'alto ogni tanto si dedichi a attività di questo genere. E insomma, il Folk Studio diventa un punto di ritrovo per i ragazzi, per gli studenti, tutti attirati dalla possibilità di ascoltare generi di musica che magari da altre parti non trovi: le canzoni folk, il jazz, ma anche una musica più spirituale, etnica, magari quella brasiliana, il blues più tradizionale. Bradley è l'animatore, è il cuore di tutto, perché conduce le serate, si esibisce, ha una predilezione per il gospel, per i canti sulla lotta per i diritti civili negli Stati Uniti, fonda anche un gruppo a cui dà il nome di Folk Studio Singers, un gruppo che ha anche una parvenza di successo. Beh, non è un bel locale il Folk Studio, non ci sono le comodità, non c'è neanche un bar fornito. Lui offre ai suoi ospiti vino caldo e popcorn, eppure la partecipazione di pubblico è straordinaria ed è basata sul passaparola, perché non ci sono i social che condividi, vai, accetta il luogo, WhatsApp. No, c'è solo una persona che parla con un'altra e le racconta di quanto è stata bene in questo strano locale, ascoltando musica e bevendo vino caldo e mangiando popcorn. Bene, la chiave del successo del Folk Studio è proprio qui, in una frase che lui ripete spesso: qui si può fare ciò che si vuole per l'amore per la musica. E sì, sembra una storia di 150 anni fa, perché pensando ai locali di oggi e alla musica che i ragazzini ascoltano nei locali di oggi, insomma, stiamo parlando proprio di un'altra era geologica, e il folk studio comincia a prendere il volo velocemente e si esibiscono anche nomi importanti su quel palco, magari una sera così per gli amici, però su quel palco ci va Bob Dylan, ci va Pete Seeger, Ravi Shankar. Bradley gestirà il folk studio fino al 69, poi rimarrà il cofondatore che si chiama Giancarlo Cesaroni, e qui entreranno in scena molti artisti italiani: De Gregori, Guccini, Venditti, Rino Gaetano e molti altri. E nel 71, diciamo nel cast, se così si può dire, del folk studio, entra uno dei più importanti cantautori che noi abbiamo nella nostra disastrata penisola. Sto parlando di Mimmo Locasciulli, che è qua con noi. Buongiorno Mimmo. Ciao Enrico, buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, noi stiamo facendo una puntata su Harold Bradley e quindi volevo che tu ci raccontassi qualcosa intanto del tuo arrivo al folk studio nel 71. Il folk studio era già aperto, però nel 71 è il momento in cui, correggimi se sbaglio, il folk studio comincia a indirizzarsi verso la sfera cantautorale, e qui da Milano si sentiva parlare di questo folk studio. Ciao 2001 ne raccontava le geste, insomma, raccontaci cos'era il folk studio. Dunque, io intanto studiavo a Perugia, dove sì, c'era l'università per stranieri, dove peraltro ha studiato anche Harold. Sì. Io leggevo sia Ciao 2001 e l'altra rivista era Big. E tutti parlavano di questo folk studio. Io ero innamorato del folk, sentivo parlare delle rassegne della canzone popolare, dai Pastori di Orgosolo al canzoniere italiano di Settimelli, Giovanna Marini, eccetera. E poi leggevo anche delle serate jazz, perché non c'era, il Music Hall era chiuso in quel periodo, con Gatto Barbieri, con tutti i jazzisti, Mario Schiano, gli italiani, eccetera. E poi lessi di un cantautore appena uscito, diciamo, parliamo del 70 più o meno, era già un anno, due anni, che aveva fatto un concerto al Folk Studio ed era Francesco Guccini, di cui io avevo il disco due anni dopo, si chiamava uno dei primissimi dischi. Lì cominciai a coltivare l'idea di trasferirmi a Roma, ma insomma non avevo velleità artistiche, era più che altro una curiosità così di ordine culturale. D'animo, dell'animo. Sì, insomma lì a Perugia io avevo imparato a strimpellare la chitarra, perché non mi potevo portare il pianoforte. Insomma, venni a Roma e prima di presentarmi al Folk Studio feci sei mesi di gavetta in un clubaccio universitario. E così mi presentai al Folk Studio un pomeriggio di domenica, perché leggevo sui giornali, sul tamburino dei giornali di quel periodo, domenica pomeriggio Folk Studio Giovani, palcoscenico aperto. Insomma, raccolsi tutte le mie forze, due o tre amici che dovevano sostenermi, e mi presentai lì, e la cassiera mi disse: allora 5.000 lire la tessera e 500 lire il biglietto, una cosa del genere. Dice: come, io sono venuto per cantare. Dice: come per cantare? Sì, palcoscenico aperto. Dice: aspetta un attimo che ti passo il Giancarlo Cesaroni, il quale mi disse: beh, insomma, noi abbiamo qui i nostri ragazzi che vengono, dice, ma mi dispiace, oggi non... E dietro di lui c'era Ernesto Bassignano, per curiosità mi disse: tu che cosa avresti fatto oggi? Dice: ma io mi ero preparato una traduzione di Bob Dylan, una canzone mia e poi quella gente là nella versione di Herbert Pagani, insomma. Sì. E disse: Giancarlo, mi pare un repertorio interessante, fallo provare. E Giancarlo Cesanone mi disse: ok. Io provai e da lì ho cominciato la mia... Senti, ma che tipo di persone frequentavano il folk studio? Capelloni, giovani? No. Beh, insomma, c'era una fauna mista, come, insomma, quello era il periodo, parliamo del post-Woodstock, no? Di questi periodi qui. Però a Roma forse c'erano altri locali, c'era il Titan, c'era ancora il Piper, dove si faceva il rock. Il folk studio un po' era supplente dell'assenza del Music Hall, per cui tantissimi jazzisti internazionali passavano al folk studio. E poi, ripeto, la canzone del folk era di casa, c'erano delle rassegne meravigliose, veramente. E poi c'era questo tentativo, come possiamo chiamarlo, di la nuova canzone italiana, dove già c'erano Francesco De Gregori, che aveva già fatto un paio di dischi, Antonello, anche lui aveva fatto un paio di dischi, c'era Stefano Rosso, Giorgio Locascio, Ernesto Bassignano, e poi alla fine mi sono aggiunto anch'io. Certo, le persone che frequentavano il folk studio, io ho un ricordo bellissimo, perché ho avuto l'impressione di aver passato molto del mio tempo in un posto importante, in un momento importante, con gente importante, c'erano certo. più o meno tutti coetanei, ma devo dire che quasi tutti quelli che ho conosciuto lì, o artisti o comunque gente normale, è quasi tutta gente che ha realizzato qualcosa nella vita. Eh sì, perché poi Bassignano, per esempio, è un valente giornalista, oltre che un cantautore tuttora in attività. Sì, anche la gente comune, c'era per esempio un chitarrista italo-americano, si chiamava Mario Fales, che faceva, che ne so, le canzoni, era bravissimo, virtuoso sulla chitarra, faceva molto verso ad Alvin Lee, del Ten Years After, e lui è uno dei più conosciuti ed apprezzati egittologi, per esempio. Certo, insomma era una casta nel senso buono del termine, cioè coacervo di cervelli. Sì. Devo dire. Senti, tu l'hai conosciuto Bradley? Io l'ho conosciuto non in quei tempi lì, perché lui era già tornato negli Stati Uniti quando io sono arrivato al Folk Studio. L'ho conosciuto, pensa, diciamo 10 anni fa, più o meno, in una serata fatta qui all'Auditorium, Parco della Musica di Roma, proprio per ricordare il Folk Studio, ma forse meno di 10 anni fa. E da lì, devo dire, no, ci siamo sentiti diverse volte. Lui è una persona, nonostante sia veramente... Oggi mi pare che abbia quasi 90 anni, una cosa del genere. Eh sì, è grandicello. Sì, insomma, comunque ancora una persona... Classe 29, quindi... Di estrema, un'intelligenza viva, molteplici interessi, insomma, una persona... E con la quale passerei volentieri anche delle serate a cena a parlare del più e del meno, a farmi anche illuminare. E invitami quando facciamo la facciamo volentieri. Mimo, ti ringrazio infinitamente, sei stato preziosissimo e a presto. Io ti abbraccio, un saluto a tutti gli ascoltatori, in bocca al lupo e auguri per la tua trasmissione. Grazie, ciao Mimo. Ciao. Il Folk Studio in qualche modo segue la sua strada, che diventa diversa da quella di Bradley. Lui ama molto l'Italia, che è la sua seconda casa, però arriva dagli Stati Uniti una proposta di lavoro che non può rifiutare, un altro colpo d'ala, l'ennesimo, un colpo d'ala che lo riporterà in patria per 20 anni. Diventa il curatore per il Consiglio d'Arte dell'Illinois, inizia a lavorare con gli insegnanti per migliorare la formazione artistica nelle scuole, insomma l'arte torna a essere il suo impegno a tempo pieno. Però è difficile tenere Bradley in un unico campo, e così negli Stati Uniti appare in molti show televisivi, conduce programmi educativi sulla CBS, sulla NBC, e si rafforza il suo impegno sui temi come il ruolo delle persone di colore nell'arte, nella musica, nel cinema, ma anche la situazione delle donne afroamericane nel mondo. Insomma, lui è sempre in movimento e il suo ruolo è già scritto nelle sue origini multiculturali, è quello di mediare tra diverse razze e generazioni attraverso la bellezza della pittura e della musica. E però poi c'è un'altra virata, perché l'Italia è la sua seconda casa. Negli anni 80 lui torna da noi, lo fa alla fine di un viaggio di famiglia in Germania, passa per Roma giusto qualche giorno per salutare i vecchi amici, poi però lui riscopre la voglia di musica, la voglia di pubblico italiano, e lo fa con un suo collaboratore storico che è Toto Torquati, è un gruppo gospel, Voices of Glory. Poi torna sul palco del Folk Studio, frequenta i jazz club romani, e c'è un'altra collaborazione importante che è quella con la Jonas Blues Band, e fa un tour in tutto il paese, prende parte a festival jazz fino a tempi recenti, e poi è in prima linea in manifestazioni dallo sfondo sociale a favore delle minoranze. Non è uno che ama fare dischi, registrare, vuole esibirsi dal vivo, però fa qualche eccezione, sempre per motivi umanitari. Insieme al coro Matite Colorate nel 2010 incide una canzone che si chiama Kumbaya per raccogliere denaro a favore dei bambini del Darfur. Oggi Harold Bradley ha quasi 90 anni e è considerato un gigante del jazz nel nostro paese. La sua attività naturalmente si è un po' rarefatta, però lui continua a prendere parte a eventi musicali che spesso sono dedicati a lui e al suo mitico Folk Studio. E ci sono persone che nella loro vita hanno dato colpi d'ala quasi apparentemente alla rinfusa e in direzioni diverse, e sono secondo me quelle più invidiabili, quelle che hanno vissuto tante vite, come Harold Bradley, che ti vince un Super Bowl, che poi dipinge, che insegna, che fa musica, che fonda un grande locale, che fa tante cose, quindi in qualche modo uno che la vita se la sta godendo. Se avete qualche personaggio che volete che io racconti, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, visitate la nostra pagina su radio24.it, venite nei miei social Facebook, Twitter, nei social del Falco il Gabbiano, insomma, se volete sapete dove trovarmi. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Giovanni Savarese. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.